Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata. Quello che ho visto, lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare. Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutta l'istruttoria. Ma non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un portobello, c'è un numero, ma non il suo. E allora, signori, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con... Parlare questa mattina del caso Tortora è risollevare il ricordo in molte persone che nemmeno ricordavano di avere nella loro memoria profonda questo ricordo. Lo vedo questa mattina attraverso un mezzo che parla della contemporaneità come Facebook, all'annuncio che ho dato che questa mattina avremmo parlato del caso Tortora, improvvisamente fioriscono i ricordi. Persone che erano bambini ricordano quella mattina, chiedono alla mamma: mamma, perché hanno arrestato Tortora? Risponde la mamma: perché dava delle caramelle con dentro la droga, risponde la mamma. Altre persone dicono: io lo seguivo molto in televisione, rimasi molto colpito. Altri dicono: eravamo tutti convinti che fosse colpevole. Sì, perché ricordo anch'io l'aria intorno al caso Tortora. Era il giugno dell'83 quando fu data la notizia, il conduttore del TG aveva quasi un sorrisino, quasi fosse soddisfatto, che hanno arrestato Enzo Tortora. Non saprei fare per i più giovani un corrispondente. Era un personaggio centrale della televisione italiana, un po' come oggi potremmo dire Fiorello. Era il top, faceva il programma che era Portobello, che riassumeva in sé tutti gli elementi che poi costruirono la televisione degli anni a venire. C'era il quiz, c'era la carambata, c'era il personaggio, c'era l'analisi appunto del caso umano, c'era l'idea degli oggetti che si scambiavano, c'era l'interazione con gli ascoltatori. E a un certo punto una mattina sapemmo che era stato arrestato perché accusato di essere membro della camorra e trafficante di droga. Uno improvvisamente ha un momento di scompenso, poi nell'animo collettivo, in quella cattiveria subliminale che corre sempre, poi nello spirito di massa, tutti fanno un sorrisino, quasi erano contenti, vedi, era ricco, era potente, era centrale e spacciava la droga. E da lì nacque uno dei più bestiali e ridicoli casi giudiziari che ricorda la nostra storia, che durò ben 5 anni, e l'epilogo di questo errore giudiziario, da cui Tortora poi è uscito totalmente e radicalmente scagionato, è stato che nell'88 Tortora muore, esattamente un anno dopo aver ripreso la sua trasmissione Portobello, con una fantastica maniera, che è rimasta nella memoria di tutti, di essere ricordato. Se Tortora in questo momento impazzisse, se Tortora in questo momento perdesse quell'equilibrio di nervi che cerca di tenere dal 17 giugno con una disperazione che confina col tormento, e improvvisamente Tortora impazzito dicesse: ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera e poi magari si discute. È quello che è capitato a Enzo Tortora. Questo è il Tortora che abbiamo visto ieri sera in una intervista di qualche anno fa al programma di Minoli, La storia siamo noi. Tortora che spiega l'unicità del suo caso e la possibilità di contaminare l'attenzione di chi lo ascolta con quello che lui è accaduto. Non assolve l'indifferenza, non assolve la bieca complicità, non assolve il sorrisino di compiacimento di tutte le persone il fatto che lui fosse un personaggio pubblico. Provate voi a entrare nell'idea che qualcuno una mattina vi mette le manette accusandovi di un reato lontano anni luce da quelli sono i vostri stili di vita, le vostre abitudini. Quel processo fu grottesco, perché c'erano i peggiori tagliagole che la nostra storia processuale ricordi, persone che avevano aperto la pancia a dei loro compari, hanno tirato fuori il cuore e se l'hanno mangiati, che chiamavano in correità Enzo Tortora come loro affiliato alla camorra. Beh, lui dice: potrebbe succedere a chiunque di voi, ricordate, può succedere a chiunque di voi. Minoli ha fatto, cioè la RAI ha mandato ieri sera in terz'ultima serata una replica su Rai 2 di un vecchio programma di Minoli, ma però avete sentito anche la notizia nel giornale radio, domenica e lunedì era andata in onda una fiction che ha conquistato sì la prima serata, dedicata appunto al caso Tortora, una fiction fatta da Ricky Tognazzi e scritta da Simona Izzo, la moglie, che ricordava a modo suo Enzo Tortora. Ma andiamo a cominciare. Stacca sul pappagallo. Stasera. Se stasera parla si fa 28 milioni di spettatori. Ma anche se non parla, sai. E comunque se lo vuoi per la prossima stagione devi raddoppiare il cachet. Al pappagallo. E anche, bravo, bravo. Io pensavo che ti occupassi solo degli affari di tuo fratello. E mi devo occupare un po' di tutto, dai, lo sai com'è. Lo so. Lo sai com'è. Paola Borboni. Paola è una. Ci sono stati soltanto pochi commenti, è passata un po' nell'indifferenza in questo momento, nella disattenzione, ma è logico, chi scrive sui giornali è molto preso dalle vicende correnti, alle corruzioni, da Batman ingabbiato, per ricordarsi un po' che probabilmente se questo doveva essere l'unico e un po' maldestro tentativo di dare, non voglio dire un risarcimento, ma una giusta ricollocazione nel palinsesti Rai del caso Tortora, forse non è stata la maniera più felice per ricordarlo. Di questo vorremmo parlare questa mattina con la figlia di Enzo Tortora, Silvia Tortora. Silvia, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie. Io fino ad oggi, come sai, ho taciuto, quindi non ho detto parola su questa fiction. E spero che questo programma, io trovo Radio 24 una sorprendente alternativa al servizio pubblico, cioè io ho una profonda ammirazione e ascolto questa radio dalla mattina fino a quando posso la sera, e quindi immagino che oggi si parli di verità più che di fiction. Per questo ti sono molto grata. Sai, quando la fiction, che è un esercizio lecito, l'uomo ha sempre amato raccontare attraverso l'epica, attraverso la favola, attraverso la metafora, le vicende concrete dell'umanità, ma l'ha fatto sempre in tempi diversi. Noi oggi, se leggiamo Omero, immaginiamo che queste dispute tra uomini e dei potrebbero essere accadute, ma anche no, oppure in qualche maniera siano il riverbero e la metafora di fatti lontani. Ma il caso Tortora è un caso vicino. Tu sei viva, tu l'hai vissuto sulla tua carne, e ancora diciamo che il grande debito che ha la società, il mondo dell'informazione, anche il mondo della politica nei confronti di Tortora non è che sia stato completamente pagato. Secondo te il tentativo di rappresentarlo attraverso una fiction in qualche maniera seguiva questa linea? Andreotti scrisse sul suo giornale al tempo, quando tuo padre fu eletto parlamentare europeo a un anno appunto dall'inizio di questa vicenda, cioè qualcuno esce dalle carceri vadendo, qualcuno mettendosi nella via politica, e quella era la dimostrazione, Andreotti rappresentava l'Italia in quel periodo, che gli italiani alla fine erano tutti ben convinti che dietro la gloria, dietro il sorriso, dietro il gentiluomo che rappresentava tuo padre, ci poteva essere veramente una doppia natura. Ma guarda, io intanto sono grata a Caterina Stagno che ieri sera ha finalmente riproposto per La Storia Siamo Noi su Rai 2 un documentario che, come dire, conclude in termini proprio di racconto la vicenda Tortora e la offre agli spettatori con degli elementi veri, cioè ieri c'era Enzo, c'eravamo noi, c'era il giudice che lo ha assolto, c'erano dei brani reali. Questa operazione della RAI di ridurre Enzo un po' a macchietta, banalizzandone la vita, offrendo degli spunti anche di volgarità, perché Enzo era un signore che non avrebbe gradito vedere messa in piazza la vita pubblica, gli affetti privati. Nulla toglie nulla. Diciamo che l'aspetto feuilleton intesseva la trama in maniera forse esagerata rispetto all'affetto rispetto giudiziario. Guarda, io non ho nulla in contrario alla fiction, però vorrei fare dei distinguo. Un tempo la RAI, questa azienda pagata anche coi soldi dei contribuenti attraverso un canone, era in grado di raccontare la mafia, e lo fece con una memorabile serialità chiamata La Piovra, e con degli interpreti straordinari e con degli elementi proprio, come dire, forti. Beh, che ebbe una veemente reazione politica. Che immagine diamo dell'Italia? Fu più una persona che disse dagli scranni del Parlamento che La Piovra non era proprio la maniera migliore per rappresentare l'Italia. Ma l'Italia si rappresenta negli scandali che vediamo quotidianamente, cioè non possiamo fare finta che non esistano corrotti, corruttori, personaggi di basso profilo, mangioni, papponi, signorine allegre, disinvolte, insomma, quindi ecco, la cecità, o meglio l'omertà, non è mai tollerabile. Ma tu cosa ti saresti augurata in una riproposizione attraverso la fiction, che è una maniera di racconto popolare che io difenderò sempre comunque, se ben fatta, se corroborata da la giustezza dei dati, perché una fiction di un fatto accaduto pochi anni fa non può dire che ci sono delle lacune. Sul caso Tortora lacune non ce ne stanno più, si sa tutto, nomi, cognomi, addirittura hanno ritrattato le stesse persone che al tempo lo accusarono dicendo era tutto finto, quindi non c'è solo la certezza processuale come qualcuno disse, ma c'è la certezza concreta, reale. Cosa ti saresti aspettata? Mi sarei aspettata del coraggio, tu dici nomi e cognomi, ecco, in queste due puntate di questa cosa imbarazzante ci sono i nomi e cognomi di tutti tranne di quei due o tre magistrati inquirenti. Allora, io questo lo trovo volgare ed omertoso. E come mai sono stati rappresentati dei magistrati e non sono stati detti nomi? No, io guardo su Wikipedia, leggo gli inquirenti, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, ad esempio. Sì. Cioè, su Wikipedia, non è che è qualcosa che va cancellato, nascosto. No, questo andrebbe chiesto naturalmente a chi ha fatto questa scelta. Tra l'altro mi risulta, perché firma questa sceneggiatura assieme alla coppia Izzo-Tognazzi, anche un magistrato, tale De Cataldo, che credo sia diventato famoso per questo romanzo criminale, sì, la storia della banda della Magliana. Quindi questo dovreste chiederlo alla RAI, dovreste chiederlo a chi ha consentito che ci fosse, come dire, una censura. Ma cosa sarebbe costato mettere anche i nomi dei magistrati per quello che erano? Sono personaggi storici, non è che ormai... Sono personaggi storici, sono uomini che hanno fatto delle luminose carriere, sono tutti comunque in servizio presso lo Stato italiano. Quindi questa è una domanda che non puoi fare a me, perché io non posso fare altro che sottolineare questa forma omertosa, ma non sono la sola, perché ho letto un bellissimo articolo di un grande giornalista che si chiama Gianluigi Nuzzi. Ecco, l'abbiamo al telefono. Gianluigi Nuzzi, buongiorno. Ah, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Gianluigi Nuzzi, su il suo giornale Libero, ha scritto ieri un pezzo, forse è l'unico che ne ha parlato in maniera approfondita ieri, Fiction traditrice, Tortora e l'omertà della TV sui magistrati. Sei d'accordo? Ma sei d'accordo, è domanda retorica, perché l'hai scritto, con quello che dice Silvia Tortora, al di là del giudizio estetico, che può essere relativo, soggettivo, e non ci interessa sapere se il nasone di Ricky Tognazzi riportava il volto sofferto di Tortora, sono fatti che lasciamo ai critici televisivi, un esercizio non mi appartiene più. Ma è veramente pesante questo fatto che sia nominato tutto, anche l'ultimo dei coprotagonisti di questa vicenda, i magistrati che parlano e sono i veri protagonisti non vengono mai nominati, come mai? Beh, io innanzitutto credo che se una fiction, per carità, deve rivolgersi al grande pubblico, ma dovrebbe rispettare forse quello che era lo spirito dei protagonista e del protagonista. E credo che Tortora poteva essere simpatico o antipatico, ma gli si deve attribuire comunque due parole. Aspetta, sei morto un attimo il telefono, qualcosa è successo. Sentite? Ecco, adesso sì. Uno che era un galantuomo, due che aveva coraggio e tre che era coerente. Cioè, ricordiamo che nell'85 lui si dimise dal suo incarico di deputato al Parlamento europeo, poteva giocarsi l'immunità e non rischiare nulla, e si sottopose al processo, rischiando, visto il clima, di essere nuovamente incarcerato magari. E lui ha lasciato anche, cioè è il primo che ha tolto dai cardini della mala giustizia, il portone dei carceri della mala giustizia, spalancando gli orrori che accadevano là dentro. E quindi questo silenzio non andare invece un po' più a profondità sulla superficialità con la quale sono state verificate le accuse di Tortora, al di là della scena dell'Argentina, le accuse rivolte a lui, secondo me... La ricordiamo, in casa di un camorrista fu trovata un'agendina che apparteneva poi alla sua amante, dove magistrati interpretarono a fronte di un nome Enzo Tortora, in realtà si chiamava Enzo Tortona, che era l'ex amante di questa donna. Peccato che c'erano dei numeri di questo signore Enzo Tortona, bastava comporli e verificare che non erano quelli. Rispondeva pronto casa Tortona, quindi va un po' oltre, diciamo, un errore di valutazione, sembra ci fosse proprio una volontà di mettere Tortora al centro della vicenda. Tu come come te la spieghi in realtà Ma questa volontà? Perché alla luce dei tempi, relativizziamo per i tempi. Uno, credo che ci sia una paura di beccarsi qualche querela ancora oggi su una storia comunque, come dicevi te, è tutta nota. Vabbè, mica nessuno diffama nessuno, racconta, io dico, leggo i nomi su Wikipedia, sì, quindi non pare che sia un mistero. Tutti noi giornalisti sappiamo che i magistrati, non quelli che fanno le querele, quelli che giudicano le querele dei magistrati nei confronti dei colleghi, insomma, sono molto attenti anche, no? Non solo hanno una corsia preferenziale nel momento in cui un magistrato fa una querela, la stessa viene giudicata a tempo rapidissimo, ma abbiamo le statistiche confermano il fatto che i danni e i risarcimenti più alti vengono liquidati proprio ai magistrati. Scusami Gianluigi, ieri sera è andato in onda il programma di Minoli, è stato fatto anni fa. Minoli non è certo uno spaccamontagne, uno che rischia la sua integrità per fare dichiarazioni rischiose. Queste persone parlavano, c'erano dei brani di repertorio con sotto il sottopancio scritto chi fosse. Quello che ha fatto Minoli è un lavoro completamente diverso, è un lavoro quasi documentaristico, tanta l'attenzione al dettaglio. Io credo che verso questa casta, per carità, dei magistrati ci sia ancora un atteggiamento reverenziale eccessivo. Credo che l'occasione per fare un focus nitido era proprio questa, perché Tortora appartiene al patrimonio di ciascuno di noi, perché è un patrimonio genetico e grazie a lui anche la giustizia oggi la giustizia italiana è sempre vicina a quella sudamericana. Sì, il paradosso fu che forse il primo si mosse veramente per migliorare le condizioni dei carcerati è stato messo lui in mezzo al giro grazie proprio a persone che stanno nelle carceri. La carcerazione preventiva, insomma, non accadono più. Oggi se accadesse quello che è successo a Tortora e agli altri, perché ricordiamo che qualche centinaio di quelle persone venne messa in carcere perché aveva commesso il delitto terribile dell'omonimia, cioè si chiamavano come degli altri. Mi ricordo che Enzo Tortora mi raccontava il caso più eclatante di quella retata di 500-600 persone a Napoli, non a Teheran, che uno di questi era accusato tra l'altro di un pentito di aver commesso delitto X nell'anno X, delitto in carcere, no? E dopo 11 mesi di carcere preventivo costui riuscì a dimostrare che non era mai stato in galera in vita sua e quindi non poteva aver ucciso alcunché e che nell'anno X aveva 11 anni. Ecco, questi magistrati, uno di questi magistrati è stato eletto al Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, ce n'erano dei spunti. Fermati un attimo, sentiamo qualche ascoltatore. 800240024. Vorrei che anche alla radio riportaste il clima e l'esperienza di voi che avete vissuto questa vicenda come spettatori. Improvvisamente il numero uno della televisione italiana, del servizio pubblico, lo si vede in manette, altra cosa orrenda, schifosa, pare che addirittura aspettassero la troupe per far vedere la foto in manette, poi è stato visto fotografato col teleobiettivo a dorso nudo, con i capelli rapati a zero per non prendersi i pidocchi a passeggiare nel cortile del carcere, quindi nulla fu risparmiato. Franco. Buongiorno. Allora, io vorrei intervenire in questo caso, perché lui è stato accusato ingiustamente e ha pagato 5 anni. Voglio dire, i magistrati che hanno fatto tutto questo, cos'è che hanno pagato i magistrati? Adesso abbiamo appena detto, è uno dei punti di questa vicenda, non è l'unico punto però, no? Sembra che io non faccio battaglie che non sono le mie, ha espresso Gianluigi Nuzzi il suo punto di vista, è uno dei punti. Il punto che invece a me interessa anche di trattare in questa vicenda è l'oblio generale e affidare comunque e rinfocolare all'oblio generale la vicenda che secondo me meriterebbe una grande attenzione, che è appunto il caso di Enzo Tortora, personaggio pubblico, personaggio invidiato, tanto può comunque nell'opinione popolare la suggestione dei media e il desiderio recondito, perché siamo tutti un po' infami in fondo al nostro animo, che l'Italia stessa per lunghi periodi era convintissima che Tortora in realtà spacciasse droga e si fosse affiliato alla Camorra. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro. Per favore datemi un rosario, voglio pregare, la dichiarazione di Herb Hartman che leggo questa mattina sui giornali, non so perché mi è venuta di associarla a un'altra dichiarazione che mette insieme un concetto riguardo a un atto di fede assoluto, è un concetto legato appunto alla presenza civile. Molti mi dicono questo era il rientro vittorioso, se si può dire così, comunque, dopo quello che era passato a Portobello il 20 febbraio dell'87 di Enzo Tortora, che disse la famosa frase «Dove eravamo rimasti?». Mi ricordo, la vidi, mi sembrano passati tantissimi anni, ma non è poi tantissimo tempo. La vidi in televisione, rimasi anche io colpito. Tutti stavano davanti alla televisione a vedere il rientro di Tortora. Ripeto, è difficile oggi paragonarlo con un personaggio. La televisione oggi è frammentata, ha tanti canali, tutto era centrale e ancora la RAI era centrale nell'immaginario televisivo degli italiani. Arrivano tanti messaggi, molti dicono che bisogna ricordare i radicali e l'impegno nel difendere i detenuti. È vero, allora i radicali furono gli unici, erano gli unici che si mossero in quella direzione. Grazie a loro comunque ebbe una sponda, l'unica forse vera sponda politica, anche se allora poco avevano a fare con la politica i radicali. Poi un altro idiotissimo SMS, ve lo leggo proprio per rappresentare come oggi molte volte abbiamo il paraocchi anche nel valutare delle vicende che sarebbero utili per comprendere meglio situazioni assolute, cosmiche, non soltanto casi isolati. Volete usare, mi scrive una signora, il caso Tortora per scagionare dell'utri tutta Forza Italia. Non capisco cosa voglia dire, dice. Parlate male dei magistrati per salvare il culo a Berlusconi e dell'utri. Probabilmente questo è il senso, no? Si è espresso il collega Gianluigi Nuzzi, che ha scritto un pezzo su questo, con circostanziate e dettagliate vicende. Io ho detto sì, quello del magistrati, che in effetti è strano, singolare, che nessuno abbia mai chiesto loro, ma perché vi siete accanniti tanto con prove così poco evidenti, così ridicole? Basta guardare le facce, le persone che accusavano uno squartatore di esseri umani, uno spacciatore di droga che accusa un signore ben educato che conduce un programma in televisione, perlomeno bisognerebbe farci sollevare qualche dubbio, ma così non è stato. Mario, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io volevo affidare a voi il ricordo che avevo di quando ero bambino, ecco, di quando si stava fuori praticamente in strada a giocare e bastava che praticamente iniziasse la sigla, iniziasse... Di Portobello allude. Esatto, esatto, assolutamente sì. E non c'era più un bambino in casa. Sì, sì, si andava tutti i guardi in casa praticamente a seguire la sigla e tutta quanta, insomma, c'era la trasmissione. Noi stavamo lì ipnotizzati, beati, ecco, guardi, a guardare praticamente... Me la ricorda la notizia appunto della disavventura giudiziaria di Tortora, come se ne parlava in famiglia? Noi, guardi, siamo rimasti tutti quanti, ma mi ricordo soprattutto mia mamma, che non riusciva, ecco, davvero, insomma, come si chiama, insomma, a spiegarsi il perché o cosa fosse praticamente, insomma, già accaduto, ecco. Non ci si riusciva praticamente, insomma, a credere, ecco. No, mi piace che lei dica questa cosa perché è difficile riportare, anche se a distanza di non tantissimi anni, quello che era lo spirito nella famiglia media italiana nei confronti di un personaggio televisivo e della forza di questa vicenda. Laura, buongiorno. Buongiorno. Guardi, sentire la voce di Tortora mi commuove ancora. Io devo dire che Tortora non mi era simpatico, non mi piaceva a Portobello. Però quando è successa la tragedia di Tortora, io non ho dubitato un attimo dell'innocenza di un signore così retto, così onesto, che si vedeva dagli occhi, dal viso e da come si difendeva. E come visse tutta la vicenda del processo, delle notizie, dei giornali, delle foto? Sì, io ho seguito tutto, ma io non ho esitato un attimo a difendere Tortora. E ho rotto i rapporti con due mie amiche carissime. A distanza di 30 anni non ci salutiamo più. E perché loro erano convinte che fosse un bieco mercante di morte. E ho una grande ammirazione per Silvia Tortora, che è stata veramente un'eroina. Poi per piacere... Dai, non credo che Silvia gli piaccia essere chiamata eroina, vero Silvia? No, per carità di Dio, anzi ecco. Condivido però... Sì, prego, signora, faccia parlare un attimo Silvia Torto. Come ascolto, Enzo non era affatto simpatico e non era neanche una persona, come dire, malleabile e aveva però una grande dignità. Io ho ricevuto degli attestati di stima anche dopo questa fiction, quindi insomma ci sono delle persone per bene che l'hanno letta come ritengono di dover leggere la storia raccontata, anche se in modo così un po' volgarotto, un po' sempliciotto. E il motore, la forza di Enzo era proprio nell'avere empatia con il suo pubblico. Enzo era un uomo che rispettava il pubblico, Enzo era un uomo che non aveva bisogno di cialtronate, di effetti speciali. Non può essere che questo sia proprio il motivo per cui ci sia stata questa improvvisa messa sul palco della ribalta dei tanti accusati di un personaggio così noto, perché per quanto mi stia sforzando, mentre seguo la trasmissione che io sto conducendo, di collocare un parallelo di Tortora nella televisione attuale, non c'è, però già la televisione sono tante televisioni, allora la televisione ancora era abbastanza a senso unico. Tortora era in realtà veramente una delle persone più in vista, più centrali nell'immaginario della famiglia media italiana, quindi si colpiva proprio un simbolo forte. Si colpiva un uomo libero. Quando si colpisce un uomo libero che non è schiavo dei soldi, che non è schiavo della cocaina, che non è schiavo delle mignotte, che non è schiavo delle frequentazioni politiche, che è stato allontanato per ben due volte da una RAI che inspiegabilmente adesso fa finta di celebrarlo e lo fa nel modo più strumentale e volgare. Si l'ha cacciato, volgare. Pensa, per un'opinione espressa in un giornale. Se sembra... No, lo cacciarono due volte, per un'imitazione di Noschese la prima volta e la seconda volta perché disse la verità, cioè disse che questa RAI ai tempi era un baraccone, era come un jet praticamente pilotato dai Boy Scout e questo gli valse l'allontanamento dall'allora direttore generale Bernabei dal servizio pubblico. Enzo è un uomo che ha fatto tante battaglie, vorrei ricordare la battaglia per il divorzio, che è comunque una possibilità legale e civile per tanti italiani che dovevano vivere sotto bosco diverse relazioni, no? Enzo è un uomo che si è battuto per la televisione libera, cioè per la possibilità che non solo la RAI fosse monopolio, ma che la gente avesse informazione, contenuti anche da televisioni diverse. Enzo è un uomo che si è battuto per i diritti della giustizia e lo ha fatto non per se stesso, perché sarebbe stato facile, cioè facile, uno si occupa del proprio caso, fa delle leggi ad personam e così rassicuriamo anche la signora che vede una lettura pro-berlusconiana in tutto questo. Enzo era un uomo diverso e quindi andava punito. A punirlo maggiormente sono stati i giornalisti italiani che, quando fu accusato e poi condannato in primo grado, stapparono, e c'è un memorabile pezzo di Vittorio Feltri sul Corriere della Sera che racconta come la sera della condanna di Enzo i giornalisti di Napoli, a Napoli, presenti per il processo, stapparono delle bottiglie di champagne. Quindi erano tutti contenti, non gli sembrava vero? Erano estremamente contenti, perché vedi, la mediocrità è praticamente quello che sta avvelenando questo paese. Ma chi fu al tempo che tu hai vissuto da giovane figlia di Enzo questa vicenda, il più schifoso è quello che ti fu più vicino invece? Se puoi fare due estremi. Allora, siccome gli schifosi... Fra gli amici tutti, però, naturalmente. Siccome gli schifosi, devo dire, sono una categoria vasta, preferirei raccontare quelli che ci furono al fianco, che erano personaggi del calibro di Enzo Biagi, Piero Angela, Giacomo Ascheri, ma tanti altri esseri, Sciascia, lo stesso Leonardo Sciascia, che andò a trovare Enzo agonizzante a casa Via dei Piatti quando ormai aveva poco tempo. Ma quale giornale, quale organo di informazione sostenne la battaglia innocentista al tempo, che c'è stata per un'infinità di altri personaggi, per Zofri, per chiunque, per tante persone sono mosse le truppe cammellate dei difensori del diritto? No, a quei tempi non c'erano giornali schierati con Enzo, c'erano persone schierate con Enzo. Il primo a rompere il silenzio omertoso fu Enzo Biagi, che fece un appello al Presidente della Repubblica scrivendo nell'agosto dell'83 una lettera appello e se Tortora fosse innocente. Furono versati fiumi di menzogne, di cose proprio, come dire, irriguardose, e Enzo vinse tantissime querele, moltissime querele. Fa specie vedere alcuni accaniti sostenitori adesso del garantismo seduti poi dall'altra parte, insomma, ma non faccio i nomi perché sarebbe sgradevole, perché sono tutte persone, come dire, viventi e non pentite. Quindi io mi sono sempre impegnata per non scendere mai al livello della volgarità. Paolo, è un film muto questo. Coraggio. Portobello. Portobello. Portobello. Portobello. La terra. Portobello. Bentornato. Veniva il nome Paola Borboni. Paola Borboni fu l'unica, la vecchia, antica, carampana, gloria del palcoscenico, che riuscì a far parlare Portobello. Trovò una sorta di sintesi felice, divenne la stessa Pappagalla e riuscì a far parlare Portobello. Fu un momento fantastico. Rocco, buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che telefono a una radio, ma lo faccio per rendere omaggio a questo grosso personaggio con il quale ho avuto il piacere di lavorare a Bologna, di collaborare con lui a Bologna quando fu chiamato a dirigere un nuovo quotidiano che si chiamava Il Nuovo Quotidiano. Che anni erano? Era il 75. Un'esperienza durata purtroppo molto poco, perché il quotidiano poi chiuse dopo 6 mesi per ragioni anche politiche, se vogliamo. È stato una grossa esperienza per me aver conosciuto questo personaggio, la disponibilità e l'umiltà della persona. Ecco, lei come visse poi 10 anni dopo la vicenda pubblica processuale di Tortora, visto che l'aveva conosciuto? Indubbiamente con molto dolore, insomma, ero abbastanza giovane anch'io allora. Ma voglio ricordarlo così, insomma. L'altra sera ho visto la fiction. Cosa ne ha pensato? Ma mi ha dato fastidio, appunto, quella leggerezza, come dice la figlia, indubbiamente, insomma. Dovevano esprimere di più cose più concrete, non mettere in evidenza la vita privata del personaggio. Condivido anche la slealtà nel non nominare le persone, i giudici, che all'epoca, insomma, non si... Io questa cosa ancora non me la spiego. Nel momento che non li rappresenta, a dire il nome, non è che si esprime un giudizio nel semplice rappresentare, è che se li si rappresenta realisticamente per quello che furono gli atti processuali, non li si può rappresentare certo molto simpatici, quindi forse tanta era la paura di dire anche i loro nomi. Gianluigi Nuzzi, che ha pubblicato sua Santità Edizioni Chiare Lettere, il libro che ha scatenato il putiferio oltre Tevere, è appena uscito un ebook proprio per Chiare Lettere, Processo al Maggiordomo, a cura appunto di Gianluigi Nuzzi, e spero che presto verrai a parlarne qui da noi. Gianluigi, tu che idea ti sei fatto in questi ultimi 20 minuti, ascoltando le voci degli ascoltatori, delle persone che ci hanno dato un contributo? In realtà poteva essere fatto un po' di più, con un po' di meno paura? Ma guarda, andiamo anche un po' oltre, cioè queste telefonate che avete mandato in onda sono lo specchio fedele dell'affetto che l'Italia e gli italiani hanno nei confronti di Tortora. E il problema però è che credo che questa fiction ci dia anche uno schiaffo e ci faccia capire come ancora i tempi non siano maturi per riconciliarsi con questa drammatica storia. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa storia è talmente scioccante che non siamo stati in grado di trasformarla in un evento tragico, ma positivo per il paese, perché ci ha insegnato qualcosa. Qualcuno dovrebbe dire ho sbagliato. Perché... Non solo, ma è un passaggio inevitabile quello di dire ho sbagliato, perché questa storia, perché Tortora non sia un patrimonio di pochi nella coscienza, nella memoria, ma diventi un, come dire, un patrimonio di tutti, e che quindi si possa capire per migliorare. Ecco, questo no, questo cioè, il Tortora ancora oggi, chi porta avanti la memoria di quello che lui ha fatto? I radicali, mentre mi perdonino i radicali, ma cosa che io non sono, ma i radicali non è un patrimonio dei radicali, è un patrimonio di un paese, perché lui ha anche dato... perché i radicali di oggi sono tutt'altra cosa rispetto ai radicali di allora, anche questo va detto. Ma sì, ma ci perderemmo, esatto, tra le scissioni dell'atomo, ecco, voglio dire, non è questo. Il problema è che questo paese non riesce a saldare i conti col proprio passato. Hai citato Sofri, ma viva Dio, tra la storia di Sofri e quella di Tortora c'è una differenza abissale. Uno, perché una persona è stata condannata e l'altro è stato assolto. Sofri è stato condannato in tutti i gradi processuali. Esatto. Pure... E uno aveva dietro di sé un, come dire, Sofri ha potuto contare, beato lui, su un sostegno trasversale di tutti gli ex appartenenti a Lotta Continua. Tortora no. Tortora era un battitore libero, assolutamente un anarchico della politica, però forse meno anarchico di tutti, secondo me, perché alla fine le scelte che ha fatto ha rispettato assolutamente i dettami della polis di un tempo. Senti, il mondo dell'informazione, visto che Silvia in questo è stata reticente, anche tutti scrivono vogliamo i nomi, ecco, perché allora si comportò in maniera così vigliacca nei confronti di qualcosa che aveva degli elementi così oggettivamente palesi che sembrava impossibile continuare a sostenere la favoletta del cinico mercante di morte nei confronti di Tortora? Perché siamo stati e sono io per primo, come giornalista bisogna ammetterlo, siamo tutti un po' Dracula, no? Cioè quando vediamo il sangue ci fiondiamo, perché sappiamo che il sangue degli altri è la nostra vendita di copie. Era una notiziona, diciamo la verità. Era una notiziona e poi sarebbe stato secondo me altrettanto notiziona dimostrare l'inconsistenza di questo. Anche qui purtroppo negli anni che sono succeduti la guerra per le garanzie, la battaglia per le garanzie degli imputati è diventato ostaggio della contesa politica. Vedi, qualcuno ha subito pensato che parliamo di Tortora per perché poi non, a me personalmente non ne può fregare veramente di meno, ma non penso che nemmeno questo sia il senso del tuo articolo, sinceramente. Anzi io credo che ovunque, cioè il fatto di pagare i propri errori legittima la corporazione, uso una parola spigolosa e antipatica, però legittima la magistratura, no? Cioè se si sapesse che queste persone, piuttosto che andare al CSM, fossero finite, non dico sotto procedimento disciplinare, ma si fosse accertate le loro eventuali responsabilità, tutto ciò avrebbe fatto bene a tutti gli altri magistrati. Cioè questo lo diceva anche Tortora, su questo aveva ragione. Cioè gli errori giudiziari fanno soprattutto male, oltre che alle vittime, alla magistratura stessa. Silvia Tortora, manca un minuto e mezzo alla fine, lasciate la conclusione. Non ho avuto questa mattina la volontà di pareggiare nessun conto, anche perché non sono in credito con nessuno, grazie a Dio, però mi ha fatto molto piacere darti possibilità di esprimere liberamente quello che era il tuo disagio, il tuo punto di vista. Sì, guarda, io ti ringrazio perché veramente mi sento di ringraziare la RAI del suo comportamento veramente omertoso. Tu considera che noi non abbiamo avuto la possibilità di vedere questa fiction prima che fosse La cieca, me lo dici assemblata. Sulla sigla me lo dici. Mi sono stati annunciati inviti che non ho mai ricevuto per un'anteprima, e quello che più danneggia Enzo è il fatto che si sia consumata una specie di risarcimento improvvido utilizzando Porta a Porta, La Vita in Diretta, come se qualcuno avesse voglia definitivamente di toglierselo dalle scatole. Vabbè, scatole. Tu sei venuto a Radio 24, quindi in qualche maniera hai pareggiato il conto. A domani.